cacciarissimi. Gente mala. Dimmi. E allora, che si dice? Io ho appena acceso. Che si dice? Stavo per iniziare a studiare. Oggi venerdì, così è, devi andare là. No, sono già andato ieri. Ah, non era il venerdì? No, hanno anticipato, erano impegnati oggi. Ho capito. Capo. Sì che non sei centrato qualcuno, no? Ui, cazzo, me ne sono alzato poco fa, ma va giù zona ancora. Boh. Ma giù via Rugaffè. Ma sei ancora dormita? Sì, ancora addormentato sono. Signore. Vabbè, collegata lei quell'antenna poi, Natalia? No, non l'ho collegata, perché mi manca la staffa per attaccarla al tubo, capito? Credevo di averla, invece ce l'avevo buttata, tutti quei pezzi di staffe, ma già devo salire su a vedere, speriamo che ci sia qualcuna. E su dove? Nell'altra casa, dove ero prima. Ah, ho capito. Aspetta, mi sposto. A vedere che piove subito. Natali. Vabbè, sono che scende. Luca, tu sei? Ehi, ho detto, ma non sto uscendo. Cosa hai detto? Ah, mi senti, non sto uscendo. Già ti sento, è che avevo roba accesa io. Ah, sorte, sempre ascoltando gli affari altrui stai. Vai, orecchie pelose. Non c'è nessuno là, ho acceso. Cava. Io già ci sono. Fino adesso ci sono. La sentenza c'è, già lo so. Ma hai tu. Quello spalliero. Ma l'hai tu. Sempre altrove. Gianfranco c'è. Ma anche lì hanno abbandonato un bel da qualche mese, ormai un anno secondo me, quasi questa parte. E hanno altra cosa da fare evidentemente. Infatti tra parte, ma chi è Natale? No, già va bene, non è né forte né basso, è giusto. Peccato che te l'hai venduto per 4,50, cazzo, quello già era bello, quello già mi piaceva. Ancora brincando dall'allegria, visto che sei ubriaco. A me da venire uno 550 euro, come quello che ho dato io, lo stesso, stesse condizioni, 550 euro. Natali, quello è così, lì quando ci sono uno deve fare di tutto per cercare di prenderselo, primo perché era non nuovo, di più praticamente utilizzato veramente poco e nulla, con i suoi imballi e tutto, sempre conservato la maggior parte del tempo, quello è, capito, non è una cosa usata, strausata, e quello era usato veramente e niente, capito? Io lo so, è che ci vogliono i soldi subito per beccare le occasioni al volo, capito? Non avevo soldi, se no ce l'avrei detto io, dava a me. E lo so che era nuovo quello che hai dato tu. Io già ce l'ho uno nuovo qua. Però quello mi piaceva anche perché aveva diverse cose che questo non ha. No, già, caspita. Già era ben funzionante. Ti la vuoi di pigliare la cosa nuova e ti la vendichi? No, è stato uno scambio, è stato. Di calcio biliardo per me, a me non mi si via. Era uno scambio più un'aggiunta che mi hanno fatto, capito? E ho preso quello per un'altra persona che lo voleva, capito? Sì, ho capito, È andato in provincia di Napoli, da un radioamatore. È andato. E un bel di gente ce l'ha quello. Sto dicendo, se guardi, 550 euro stanno dando un rivenditore di radio usate. Sì, bellino, Però l'hanno matrivo a Pigliani di nuda, Bagosami, giusto, mi ho preso quell'antenna lì, per la macchina, se dovessi usarlo in macchina, e se no, adesso vediamo cosa succede. Sì che hai preso, ancora prima, come ti si dice. Bisogna vedere se no cosa me ne faccio. Se non va in porto me la metto lì, attaccata al tubo, come c'avevo quell'altra, per ascoltare me la tengo. Non l'ho neanche tirata su tutta, perché è un bel lunga, C'è l'altra gente mi ha detto che va bene. Che vuoi che ti dica? Tu devi ascoltare quelli che ce l'hanno già, se ti dicono che va bene, che ce l'hanno già da tanto, che la usano, allora biglia, ma certo, chi è che non farebbe così, se glielo dice una persona fidata. E ce l'ha anche Marcolino, ce l'ha amico, quella lì, l'ha provata e dice che funzionava. Poi c'è la gente di dove sto andando io che la possono usare e hanno detto che funziona bene. Vabbè, che meglio di un radioamatore, però non ti può dare conferma, appunto. Infatti io l'ho chiesto a chi la può usare, che ce l'ha, e mi ha detto che funziona bene. E loro le usano quando escono fuori, capito? Che fanno attivazioni e cose varie, e dice che funziona bene e che poi ti dica. Io mi devo buscare un attacco di quelli a PL per metterlo sopra una base magnetica, se non me la abituiamo un attacco a PL larga come quella che ho io, se no mi tocca togliere quella della 27, capito? Ci sono già le base magnetiche con l'attacco a PL. Infatti, perché c'ha l'abitatura PL quella lì. L'altra volta io quella bibanda gli ho attaccato un barilotto sotto e il PL e funzionava alla grande, c'avevo il ricevitorino attaccato e funzionava benissimo, ricevivo tutto ed era bassa pure come antenna, non era alta, eppure riceveva. Non è questo. Allora, 4, 5 ampere. Ma aspetta, Natali, che mi saldo questi fili a un variabile. Ehi, fai, già sono qui. me Luca Saldato là l'Asturia. Vediamo qua che c'è. CQ canale 10. Avanti! Aspetta, c'è il volume è basso, chi è? Buonasera. Ciao, ciao Gianfra. Ciao Gianni, show. Ma in quanti siete? Ho sentito ciao. Gianni. Sparito. Chi era? Gianfranc. Ehi, chi è? Avanti. Gianni, show. Ma non so, ma sei eri in macchina o cosa? No, ero a casa, solo che probabilmente ho toccato la rotellina che c'ha dietro dell'Ecco, il microfono, è per quello che ieri lamentano. Infatti non si capiva una mazza, sembrava in 10, chiamando, sei tutta una volta. Ma qua piovuto, c'ero nero, Roia. Io stavo uscendo, ho messo le zampe fuori, siccome l'ho messa fuori l'ho rimessa dentro, che stava più avvicinando. È un casino, e oggi è una brutta giornata, boh, anche ieri la uscì, non si può uscire, vabbè io non ce la faccio uscire, ma chi può uscire non lo può fare, a meno che ha intenzione di farsi il bagno. E poi sembra che te lo faccia apposta. Adesso da qua sembra tranquillo, se ci fuori sta piovendo. Sembra una presa in giro, ma e poi da una parte sta uscendo anche il sole. Però l'Alghero ne sta salendo roba nera. Oi. E dai Gianfranco, noi siamo anche fortunati, che ti hai visto tutti gli allagamenti che ci sono all'Alta Italia, anche in Sardegna, la zona di Oristano, tutta quella zona di Olbia, tutto quanto un lago. Infatti devono stare attenti adesso perché magari pure li condannano, perché oramai se succede qualcosa è colpa tua, no? Tipo quelli dell'Aquila, una roba da matti, la gente sta diventando una matta. Ehi, ma le sentite adesso un'altra fesseria, tu trovi un fosso, cadi dentro il fosso, ti fai male, la colpa è tua perché non sei stato attento, il giudice ha praticamente dato ragione al comune. Sì, l'ho sentito. Guarda, ci sono due malattie in giro, uno è il Covid che continua a essere presente, l'altra è il macchini di Gabbo che sta peggiorando pure, sta colpendo un po' tutti, perché io vedo tanta gente fuori testa che non viene bene a dirlo, cioè, ma quando mai? Cioè c'è un buco, non lo devi coprire, poi li vedi che lo coprono e l'indomani di nuovo scoperto. A mezzogiorno vanno a tapparlo e a luna vanno a riscavarci. Sta diventando una presa in giro veramente, perché guarda, neanche ci fosse San Leolio. Sì, tante contraddizioni, è come quello cavolo che se c'è il cane in casa e morsica il ladro, ci piange lui, capito? Oppure quello che si difende con la pistola perché il ladro lo sta per sparare e si difende e ci mettono dentro a lui. Addirittura deve risarcire anche il ladro, capito? Risarcirlo dei danni. E se poi l'arrestano, per sbaglio, anzi quasi sempre li prendono in realtà, poi se li prendono devono stare attenti anche a come lo mettono in macchina, perché sennò il ladro denuncia la polizia e poi il poliziotto corre rischio anche di essere licenziato. Ma è la follia. Io stavo guardando come agiscono in America, va un poliziotto solo col cane poliziotto. Tanto ha visto questo ladro, lo stava seguendo, il cane l'ha superato, l'ha buttato in terra, è andato il poliziotto e gli ha messo le manette. Ha tenuto fermo sino a quando è arrivato il poliziotto, gli ha messo le manette e gli ha garrigato. Sì, quello sì, però non è. Anche lì non è da prendere in esempio, perché Sparano giusto per sparare, così, come se fosse un bersaglio, ma non si fa, perché se non c'è la fragranza, cosa ti metti a sparare? Magari la pallotta la poi, non è detto che colpisca lui, colpisce quello vicino, che non c'entra la mazza. Quelli sono dei pistoleri tipo West, anche lì c'è un casino e se non ci mettono mano, ogni giorno si scappa e morto. Non c'è questa sorta di follia collettiva che veramente non si crede. E quelli che vanno nelle scuole che ammazzano alunni, sempre in America succedono queste cose, ammazzano alunni, ammazzano la maestra, di questi pazzi furiosi ce ne sono tanti, perché le armi sono libere, capito? Quindi lì ci giocano con le armi. A parte le armi, che già di per sé la situazione è grave, ma è un po' la stessa malattia che è capitata qua col Covid, no? Che ci sono queste sette, questi fuori di testa che ne escono senza motivo, perché vogliono essere protagonisti, che qualunque cosa succeda, se piove, sicuramente è una congiura, non state sotto l'acqua perché se la prendete vi corrode la pelle e cose di questo genere, cioè degli allarmisti che fanno allarme e basta, e stanno provocando dei danni enormi veramente, perché la gente dà più retta a loro che magari agli esperti che si sfogano in tutti i modi, e questa è una cosa molto pericolosa anche per la democrazia. È una follia collettiva, guarda, dappertutto, in tutto il mondo. Cioè oggi ci hanno buttato fuori il ministro dell'economia, no? Ci hanno buttato fuori, l'hanno fatto dimettere perché ne avevano la faccia intera. Cioè, ma come fa a presentarsi in Parlamento e a dire abbassiamo le tasse a ricchi e i poveri ce la prendono in quel paese? Cioè, ma una follia, guarda, è una follia. Ma fra, poi ci stanno facendo vivere nel terrore, tra Covid, guerre, questo e quell'altro, pace non ce n'è più, cioè siamo sempre con questi pensieri, sempre con la FIFA addosso, non stiamo più vivendo tranquilli. Sì, ma anche quello è un sistema per creare tensioni. Come dire, quando tu dai una rivoltella in mano a un bambino e per di più è carica, tu non sai quello che succede, può darsi che la metà terra scappi e può darsi che si metta a sparare a tutti. Siamo in questa situazione. Internet purtroppo che è la cosa più libera che c'è, però questa libertà viene usata malissimo per fare allarmi, ma lo sai quante cose bloccano proprio perché ti dicono che domani moriremo tutti, ti dicono di non farti operare perché ti uccidono, c'è di tutto di più, veramente ognuno, come si dice in sardo, 30 gabbi, 30 barretti, ognuno dice la sua, anche le formiche parlano, nel mio caso anche le cornacchie, guarda. Sì, ti portano, sembra che non ti facciano il lavaggio del cervello, ma inconsciamente te lo fanno ugualmente. Sì, e mentre prima a fare queste cose, soprattutto negli stati poco democratici, erano i media di regime, come succede in Russia praticamente, adesso sono tutti, perché basta che uno abbia una connessione, va nei soliti chat e così via, e dice tutto quello che vuole, teorie sbagliate, medicinali noi parliamo, devi prendere estratto di cianuro così stai bene per sempre, queste cose qua. Ma poi c'è anche il pericolo per i ragazzi, perché non so se adesso sia finita questa mania, ma c'era la mania di inculcarle la soluzione finale, quello del suicidio, perché così dimostravi non so che cosa. Negli Stati Uniti ne sono morti parecchi, ma anche in Italia, cioè è roba folle veramente. Sì, è risaputo questo fatto qua, che ci siano sono tipo sette, cavolo, che ti fanno fare queste cose, li invogliano a suicidare. suicidarsi, a farsi del male, eccetera. E purtroppo internet è un vasto campo, diciamo che è una giungla. E tu pensa, non so se l'hai, se hai sentito quando eravamo più giovani, quel Mason che ha fatto quella strage lì, ha ammazzato donne e bambini, quel pazzo furioso. E allora internet non era così diffuso, figurati adesso i pericoli che ci sono. Tutti questi ragazzi che vanno, credo che l'ultimo fosse ieri addirittura, che vanno negli Stati Uniti, anche in Canada adesso, a sparare nelle scuole, a fare queste cose qua, si sentono protagonisti, no? Perché ci vanno con la connessione, col telefonino, a riprendere tutto, la gente che ammazza, ma sono cose veramente che incutono orrore. Se pensi quando eravamo giovani, noi andavamo a giocare una partita a pallone tranquilli, oppure a fare birichini, ma mai pensava, mai si poteva immaginare che c'era gente che penetrava in classe col mitra a farti fuori. Cioè, non so dove sta andando veramente questa umanità. E noi ci accontentavamo di poco, ci facevamo il monopattino con i cuscinetti delle macchine, oppure giocavamo a ballucci o a celai tu, tutte queste cose qua, ruba bandiera, giocare a pallone, ma mai pensare di fare del male a nessuno, per carità. A parte se te ne arrivava una persona pesante quando si faceva amici, mi sono convinendi, te lo ricordi? Ehi, ho lo schiaffo, cazzo, viaggia. Eppure molta gente è cresciuta bene, tranquilla, poi quando ci si incontra si ricorda, adesso ci sono aperti, guarda che c'è la stazione Termini, anche quella centrale di Roma e di Milano, che devi stare attento, tu arrivi in treno, ti devi guardare le spalle, perché sono un ragazzino col coltello, se non hai quello che vogliono, ci si veramente male. È una cosa assurda. Poi ci sono gli scippatori sempre fissi, scippatrici per dire, non scippatori, più scippatrici che scippatori. Praticamente l'hanno fatto vedere a Striscia la Notizia, ci vanno dei ragazzi, dei volontari, e gridano attenzione, ci sono dei scippatori, e quelli li tirano a pietre e fanno perché li sputtano, capito? È così. Purtroppo anche le forze dell'ordine sono demotivate, perché hai visto quella cos'è, un vigile urbano, una guardia giurata, le volevano rubare la pistola, se ti rubano la pistola sei rovinato, cioè ma cosa devi fare? Meno male adesso stanno distribuendo queste, le pistole, diciamo, che danno la scarica. Almeno lì qualcosa possono fare, ma certo sono 3 o 4, poi ti fanno la festa. Ma se trovi quello malato di cuore, come gli dà la scarica ci rimane, mi lo sai. Ma a un certo punto negli Stati Uniti non te lo dicono neanche, appena ti fermano ti sparano. Qua io l'ho preso 2 volte solo, la terza come sì, peggio per te. Se iniziamo, a noi ci ha rovinato il volemosi bene, inculcato anche da alcuni personaggi strani, che questo non si fa, questo non si tocca, questo comunque ha avuto un'infanzia. Quanti di noi non hanno avuto un'infanzia diciamo disagiata, perché le famiglie erano povere, ma nessuno di noi è andato a rubare o a rompere le scatole al prossimo, e se poco a poco facevamo qualche cosa erano botte. Prova a picchiare un ragazzino oggi che ti denuncia la polizia. Sì. Lo so, prima c'era anche un'altra educazione, Gianfra, se un vicino di casa ti vedeva a fare qualcosa che non dovevi fare ti sgridava e ti gagliavi nudo, adesso se sgridi i ragazzini ti prendono a parolacce. O ti bruciano la macchina anche. È una cosa esagerata, il cambiamento che c'è stato, sarà la tecnologia, sarà che sarà, però il computer è come una macchina che serve, è una macchina anche che danneggia molte cose, e vabbè. si è fatto delle famiglie e non ci credo, perché se una di comuni di gorra se le mette lo stesso, capito? Però per altre cose sì, per influenzare ragazzini eccetera eccetera, pedofilia, tutta questa roba qua, col computer sono più agevolate queste persone. Sì, certo, guarda, io ho dei colleghi che hanno figli, se vedi i genitori, tutte bravissime persone, per carità, però sembra che ci abbiano la bomba in mano ogni giorno, perché hanno paura che esploda con i figli, ma sempre lì al telefonino, ma dove sei, con chi sei, dove sei? Cioè è un incubo, guarda, sono tutti agitati, hanno tutti paura, ma si può vivere una vita così? Vabbè ragazzi, vogliono seguiti. Io mi ricordo che mia figlia, quando aveva 13-14 anni, io e mia moglie andavamo dove andava lei e andavamo a controllare di nascosto a vedere cosa faceva, capito? E diciamo che un po' bisogna seguirli i figli, però non esageratamente, naturalmente, perché poi si scogliolano e dico lasciami in pace, anche perché gli amici poi se ne ridono se stanno sempre appresso a te, capito? E però intanto fanno preoccupare i genitori, perché sentono di queste cose e hanno paura che anche i figli cadano magari in giri d'onfi, capito? Basta uno che abbia un pochino di seguito e combina il patatrac, poi rovina anche gli altri. Sai, siccome lo fanno gli altri, se non lo faccio anch'io, non sono più del gruppo, no? È un classico quello. Ho visto un ragazzo, quando era, che hanno portato in caserma in manette. Mi hanno dato anche le sigarette, guarda, e poi si è rimandato, adesso l'hanno fatto il foglio di stare a casa, no? Degli arresti domiciliari, ma proprio preso così al volo, per carità, ai tempi nostri 4 calci in culo avrebbero dato e fatto volare via, altro che sigaretta. Ho visto a forum il cugino di questo ragazzo che aveva una greffa nel muretto, le solite greffette, che per entrare in greffa doveva andare e palparsi questa tipa. Lui era un bravissimo ragazzo, ma per essere uguale agli altri è andato e si è palpato questa tipa l'ha preso e poi lui si è messo a piangere, ha detto che non lo voleva fare, però che è stato costretto perché sennò non lo volevano con loro, e gli ha fatto anche pena, però nello stesso tempo l'ha denunciato, capito? E diciamo che è stato il cugino che praticamente l'ha invogliato a fare queste cose. Infatti, quello che si chiama spirito d'emulazione, no? E quelli dei treni che andavano a attraversare o a saltare dove c'erano i pali dell'alta tensione, ogni tanto qualcuno rimaneva attaccato, sia ragazzi che ragazze, quanti ne hanno combinate? Quelli che fanno parkour, ci fanno le fotografie in cima alle montagne, poi magari dei posti ributti, facendo una fotografia tornano indietro, ma dove si vanno in gioco? Quante ne sono successe? Sì, appena. Poi sono anche folli, perché non capiscono, guarda, sicuramente sei stato nelle stazioni grosse, no, dove passano i treni veloci, e lì anche l'autoparlante dice quando passano di allontanarti, ma lo sai lì, che ti, secondo che distanza se ti scaraventa a terra di brutto dalla, e poi fa risucchio, no, quando termina, e ti porta sui binari, se non stai attento. Quelli passano sparati e questi vanno a farsi il selfie, capito? Ehi, si mettono sui binari mentre sta passando il treno, se ce la fanno uscire ne escono, se no li bisogna. Vai a frenare a quella velocità o neanche se è successo qualcosa del genere con quelle due ragazze, quelle là che erano da poco cadute, poi bisogna vedere cosa è successo, perché guarda, è talmente alto che anche sono ragazze a saltare un metro di coso di dislivello, poi a salire è un problema. No, ma dice che una si voleva suicidare, la sorella è andata a salvare e ha pizzicato tutti e due il treno. Ma lo fanno come sfida, capito? Si mettono davanti ai treni che passano, stanno sino all'ultimo in mezzo alla ferrovia, poi cercano di scappare. Se ce la fanno, ce la fanno, se no li prende in pieno. Perché pensano che poi possono riniziare se va male, ma così non è. Perché chi c'era lì poi l'ha visto cosa è successo, capito? Che sono arrivati quelli dalla mortuaria e hanno raccolto i pezzi, no? Uno qua, un pezzo di mano lì, un pezzo di testa, messo dentro le buste e portato via. Ma una fine intelligente è quella. Non ne capisci, È una gioventù strana, forse non è soddisfatta, cerca qualche cosa di più, non ha soddisfazione. Mia figlia da poco mi ha telefonato, papà sono a Tortoli, dove ci fa Tortoli? E dopo te lo faccio vedere. Non mi ha fatto il video mentre saliva su un aereo e si è buttata col paracadute. Guarda, mi ha fatto venire uno spavento perché da 5.000 metri si è buttata. È già un'altezza da aereo, diciamo, da aereo di linea, di quelli elica, no, con quelle altezze. Sembra anche esagerato, all'inizio abbiamo fatto fare una cosa del genere. Ma vedi, guarda, è uno sport comunque. Se ti piace va anche bene, se si segue tra l'istruttore e tutto, non penso che l'abbiamo fatta salire così giusto per un macchine di capo, perché se c'è qualcosa poi perdono anche la licenza di volo. Quella è, diciamo, una passione, magari potrei evitare di dirtelo, e te lo diceva in un'altra maniera, magari ti preparava la cosa, no, mica mi sto buttando all'aereo e tu non ti sapevi nulla, diciamo, stava a dire guarda che ho fatto la scuola, ero tanti mesi che mi addestravano, eccetera eccetera, adesso c'è questa passione, ci sono tanti che lo fanno. Però un conto è che gli dici babbo guarda quanto sono bravo a passare in mezzo ai treni. Fra, non è così come dici tu, non ha fatto nessuna scuola, gli hanno fatto un regalo per il compleanno, tutti gli amici messi insieme, gli hanno comprato il biglietto per fare questo volo. E praticamente c'era l'istruttore che era a fianco a lì e praticamente volavano insieme, capito? Volavano insieme e gli ha detto come doveva prima di buttarsi, come doveva tenere la testa, le mani, eccetera eccetera, e hanno volato insieme, capito? Si volavano a fianco e poi c'era l'altro che faceva la ripresa. Ah, ho capito, come fanno con certi anziani, che vecchietti anche, sì, quello è bello, anche a me piacerebbe farlo. E quello è sicuro, perché comunque c'è un esperto dietro. Io pensavo che l'avessi fatto da sola, capito? No, sola no, no, assolutamente. Era la prima volta che facevo questa roba, io c'ho il video, mi ha mandato il video, non è che mi ha detto subito che cosa sta facendo, ho detto dopo te lo faccio vedere dove sto andando, mi ha detto. E praticamente me l'ha mandato da quando saliva sull'aereo, tutta sorridente, non nessuna paura, tutta sorridente, poi quando si è buttata, tutto quanto, perché gli hanno fatto i filmati, capito? Sì, poi c'hanno due paracaduti, sempre anche quello di sicurezza. Mentre chi lo fa da solo è diverso. Ti ricordi quell'attore che era molto appassionato di paracadutismo? Chissà cosa è successo, era giovane, che era all'inizio della carriera, non mi viene il nome, si è buttato e il paracadute si è incrociato di lì. Non capisco, forse ha tardato troppo e non ha tolto l'altro paracadute, quello che è di emergenza. E c'è rimasto, credo che ci fosse anche la moglie presente. Pietro Taricone, è la prima cosa che ho pensato quando ho visto mia figlia che volava in aria, ci credi? La prima cosa che mi è venuta in mente è quella. Lo so, Però guarda, ti dico che è più sicuro quello che sapere che i tuoi figli magari stanno rientrando il sabato sera in macchina o qua. La macchina sta diventando un rischio altro che paracadute. No vabbè, mia figlia per quello già c'è la testa attaccata al collo, non è... Cos'è? È molto, gli piace molto le cose libere, gli sport, andare per dire scalare le montagne, fare queste cose qua. La libertà gli piace, della natura, eccetera, queste cose qua. Gli piace girare per le città, visitare, poi adesso che a Bologna, lei ogni tanto fanno queste... lei praticamente fa l'educatrice con gli istituti dove lavora, fanno delle escursioni anche all'estero, capito? L'altro giorno erano in Austria per dire, e gli piace molto girare. Di quello devi essere contento perché evidentemente c'ha una buona maturità e quindi puoi stare tranquillo, ecco. Però quelli, sai, c'è una luce che non sono così purtroppo. La tua c'ha la testa sulle spalle, fa le cose sapendo che queste cose sono pericolose, però sono cose anche appaganti. È giusto che non rimangano dentro l'uovo i figli, anche perché presumo che oramai sia anche grandicella se fa tutte queste cose. Quindi è giusto che sia così. Certo, qualunque genitore rimane con la strizza, però è così, ecco. Ma allora c'ha 30 anni, non è più piccolina, dai. È laureata e tutto, quindi c'ha un buon lavoro, è in un istituto di ragazze madri, poi ci sono, tiene anche qualche bambino autistico, lì si è laureata in scienze dell'educazione. Sì. Infatti pensa, c'è l'età, è sicuramente abituata anche al rischio, a fare queste cose, consapevole di tutto, quindi è già una donna, non la puoi ancora tenere, diciamo, al guinzaglio come se fosse una ragazzina, ecco. Ma tu pensa invece allo stato d'animo di quelle persone che vedi nei telegiornali, quelli lì della guerra, casa distrutta, figli che non sa dove sono finiti, ma da una parte e dall'altra, perché anche certi ragazzi russi li prendono, ce li mettono di lì a bordo di un carro armato che non sanno neanche guidare e si trovano inceneriti. Cioè, figurati i genitori di quelli in che stato d'animo possono essere. Noi purtroppo spesso, noi europei, anche noi italiani in particolare, ci dimentichiamo di quanto siamo fortunati, o perlomeno di quanto siamo stati fortunati finora, e non lo riconosciamo perché vogliamo sempre di più. Però se uno ci fa una riflessione guardando gli occhi di queste persone anziane, che hanno fatto tanti sacrifici e adesso non c'hanno più niente, e hanno perduto tanti cari, è veramente una cosa triste. Ma lo so, purtroppo è così. La guerra certo non porta né allegria né felicità, ma poi ci sono anche tanti russi che sono contrari a andare in guerra, sono praticamente obbligati a farlo, ma sono contrari, capito? Non vogliono fare la guerra, anche perché molti russi sono sposati con ucraini e viceversa, capito? Hanno la famiglia mista ucraina e russi. Adesso che è separata la Russia, si vuole prendere tutti i territori, tutto quanto, un egoismo di questo pazzo furioso. Purtroppo sì, questa è una randellata che ci sta dando la storia, perché noi ancora non abbiamo capito niente, perché certi stati così, sia in Iran, sia in Russia, sia in Corea, cioè in tantissime parti del mondo, mandano al potere per cose così questi personaggi, e poi si ritrovano in guerra, cioè nella miseria, nella povertà. E quasi tutti questi personaggi, tra l'altro, poi sono ricchissimi proprio. È una vecchia storia. La democrazia è una cosa imperfetta, sicuramente imperfetta, perché nel rischio del paese democratico ci sono tanti problemi, anche tante ingiustizie, se vogliamo, ma nella dittatura, con questi personaggi c'è la guerra, c'è la morte, non c'è la vita, non puoi parlare, ha detto quella ragazza poverina, e c'aveva il velo, solo che era in disordine, l'hanno bastonata a morte, l'altra l'hanno sparata in pieno petto, cioè veramente, ci pensi, ma come fa, uno ci fa un pensiero, ma come fa questa gente poi a poter competere con la natura che si sta rivoltando? Come facciamo noi a dire a questa gente, guarda che non bisogna inquinare, guarda che siamo messi male? Come fanno a risolvere i problemi dell'umanità, quelli grossi veramente, se già loro hanno dei problemi? Ma sono usanze strane, ma io penso che tra Russia e Ucraina ci sia anche un fattore politico, oltre che per il resto, anche un fattore politico, perché i russi sono di sinistra, sono comunisti di quelli accaniti, invece gli ucraini sono di destra, quindi anche un fattore politico ci può essere di mezzo. Ma guarda, i fattori ce ne sono tanti, ma se poi torniamo in basso verso le persone, la gente, come ho detto poco fa, erano parenti, e molti l'hanno detto, ma noi andavamo a fare la spesa lì, loro venivano qua, mangiavamo insieme, cioè, adesso ha seminato l'odio, cioè l'odio, ma come fai a invitare a casa tua adesso, anche se un parente, uno che va dall'altra parte, che magari il figlio è stato costretto a ammazzare bambini, donne della tua terra? Cioè, questo è un problema grave, ci vorranno decine e decine di anni prima di dimenticare, ci vorrà una nuova generazione, ammesso che abbiamo la possibilità di farla. Sono seminatori di trincee di odio che difficilmente saranno scavalcabili. La colpa maggiore è proprio questa, perché poi quando gli hanno chiesto, ma no, i russi qua non ci metteranno più piede, a costo di, a qualunque costo, anche se sono fratelli, anche se sono parenti, quindi figurati che semi è brutto che hanno mietuto per un pazzo, un paio di pazzi ricchi fino alla vergogna. Comunque Gianfredo, dico una cosa, circa 6 anni fa io stavo con una donna ucraina, praticamente la guerra c'era già, perché telefonava il figlio, diceva mamma qua c'è la guerra, stanno sparando, ho paura, la madre gli ha detto venitevene qua in Italia, un posto ve lo trovo, tanto io c'ho una casa, qua è in affitto, venitevene qua tu, tua moglie, il figlio, tu, perché c'aveva un nipotino piccolo di 2 mesi anche.